Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 4 novembre, il sole in regione è sorto alle 6.52 e tramonterà alle 16.49. Mercoledì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Sebastiano Franco. Alla ricerca di qualità, sostenibilità e gusto, l'ERSA sta portando avanti nelle zone montane della regione una serie di campi orticoli sperimentali che stanno dando prime indicazioni non solo per gli addetti ai lavori ma anche per l'orticoltore domestico. Ne parliamo nel servizio di apertura per passare al corsivo di Enos Costantini, che lancia una proposta provocazione per il recupero dei territori di montagna. Cambio d'argomento nella rubrica delle normative con le nuove disposizioni per l'etichettatura dei derivati del pomodoro, mentre per la storia dell'allevamento bovino di Friuli Venezia Giulia siamo arrivati ai primi 900. Visiteremo poi un giardino d'inverno e sentiremo quanto fosse fiorente l'arte del distillare la grappa in regione a fine 800. Mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio della settimana chiudono la puntata. Siamo alla scadenza dell'annata agraria 2018 che, come sappiamo, si chiuderà il prossimo 10 novembre, giorno di San Leone, per iniziare il giorno dopo con il più famoso San Martino. È tempo di bilanci anche per quanto riguarda i programmi e i risultati portati a termine dall'ERSA in ambiente montano. Al nostro microfono oggi Costantino Cattivello, vecchia conoscenza di Vita nei campi, per fare il punto su quanto si è fatto e sugli obiettivi che si è data ERSA per i prossimi anni per sviluppare il comparto orticolo in montagna. Tutta l'attività si è concretizzata grazie ad un lavoro e a una collaborazione tra ERSA, UTI, collaboratori tecnici e aziende ospitanti, chiaramente. Abbiamo portato avanti sperimentazioni su alcune specie caratteristiche dell'area montana, come ad esempio il fagiolo, la fava, la patata, il cavolfiore. Le linee di fondo che hanno guidato il nostro lavoro sono state la messa a punto di varietà particolarmente adatte agli ambienti montani ed adatte alla commercializzazione attraverso filiere corte. Entriamo nello specifico partendo da Sua Maestà. Il fagiolo, parlando di montagna. Esatto, va detto che abbiamo lavorato sia su fagiolo rampicante che su fagiolo nano. Sul fagiolo rampicante devo dire che è un lavoro che ha preso avvio all'inizio degli anni 80 e, seppur a fasi alterne, ha permesso di selezionare, iscrivere e lanciare sul mercato delle varietà particolarmente adatte ai nostri ambienti montani e di ottime caratteristiche merceologiche. Poi, 5 anni fa, il lavoro è ripreso con l'intenzione di migliorare quanto già selezionato, tanto che pensiamo a fine anno di avviare le pratiche per l'iscrizione di una nuova linea rampicante, particolarmente rustica e di buone caratteristiche merceologiche. Infine, 3 anni fa ha preso avvio un lavoro di miglioramento genetico sul fagiolo nano per inserire delle resistenze genetiche alle più pericolose crittogame che colpiscono questa leguminosa. Una chicca, la fava Tisauris. Stiamo caratterizzando questa leguminosa per mettere in luce quanto la differenzi dalle fave presenti attualmente sul mercato. Al tempo stesso stiamo valutando l'introduzione di tecniche agronomiche al fine di migliorare la produzione di questa specie ed aumentare le superfici coltivate, chiaramente, che è una premessa per una valorizzazione di questo prodotto al di fuori degli ambiti locali. Non potevano mancare le patate. In questi ultimi anni abbiamo iniziato anche a valutare dei materiali nuovi che a nostro giudizio sono molto interessanti. Si tratta di materiali resistenti o tolleranti alla peronospora. La peronospora è un fungo che in queste condizioni, nelle nostre condizioni, può dare seri danni. Poi c'è il cavolfiore. una new entry, il cavolfiore era poco coltivato fino a una cinquantina di anni fa, negli ultimi 20-30 anni ha iniziato a guadagnarsi uno spazio particolarmente interessante. La montagna si presta molto bene perché grazie alle buone escursioni termiche diurne ci permette di avere un prodotto di ottime caratteristiche qualitative e merceologiche. Anche qui ci sono delle grosse novità in termini di nuove varietà che stanno entrando sul mercato, che non solo sono buone, ma hanno delle peculiarità salutistiche che il mercato sta premiando. E di quello che è stato fatto ci parla Elena Valent, collaboratrice esterna di ERSA, che ha lavorato su questi progetti in area montana. Sì, sono stati svolti numerosi studi di recupero delle erbe spontanee, in modo particolare sul buon enrico, la cicerbita, la barba di capra, il sedano selvatico, ma anche su varietà e su specie orticole come porro, radicchio, asparago, cren e infine il carciofo a ciclo annuale. Per queste due ultime orticole l'aspetto interessante è stato, oltre alla qualità superiore, il fatto della sfasatura temporale, ovvero avere un prodotto in un periodo dove generalmente non si trovano nei mercati e di conseguenza il mercato riconosce un prezzo più alto, e questo è un valore aggiunto per la produzione montana. Infine, ma non ultimo per importanza, il recupero e rilancio della rapa di Verzenius, meglio nota come Gnaus. In troppi usano a sproposito il termine territorio senza avere ben preciso il quadro di riferimento cui riferirsi in regione, ne è convinto Enos Costantini, che lancia una proposta tra il serio e il provocatorio. Nel discorso di un politico abbiamo contato 4 volte al minuto la parola territorio. Nel discorso di un amministratore di area poco vasta, 3 volte. Nel discorso di un alto funzionario regionale, 5 volte. E ora piove, governo ladro, e piove sul territorio, anche su quella parte che non esiste, su quella metà del territorio che un tempo esportava gagliarda manodopera giovanile e ora è abitata da 4 vecchierelli allocchiti davanti alla TV. Per una 30 anni una consolidata liturgia prevedeva convegni su questa parte del territorio che si denominava montagna. In realtà questo territorio è come l'isola di Peter Pan, il territorio che non c'è. Metà della superficie regionale non può interessare più nessuno, che non sia la pregiata fauna selvatica di ritorno, rioccupante un territorio un tempo suo. La Montana dei Santi, la Montane dei Sants, così si chiamavano un tempo le piogge torrenziali di fine ottobre inizio novembre. E se ciò aveva un posto nel calendario santorale, significa che si ripeteva con cadenza annuale. Le sue malefatte, perciò, erano da contenere in modo profilattico piuttosto che dare sfogo a una ingiustificata ira contro le cateratte del cielo, i santi del paradiso, gli dei dell'Olimpo. Il problema della montagna, che poi sarebbe l'unica vera eccellenza del nostro territorio, è demografico. No int, no people. Noi, per ovviare i problemi della montagna friulana, avremmo la ricetta demografico-zootecnica. 2 punti. Fare una convenzione con una popolazione berbera dell'Atlante marocchino. Diamo a questi montanari incomodato prati e pascoli, boschi, case e stalle. Rifioriranno le latterie sociali col formaggio pecorino, ci sarà carne di pecora per la pitina, per la petuccia e per tutti i kebabari di Alpe Adria. Nei pacchetti delle agenzie turistiche dalle Alpi in su sparirà Venezia, per lasciare posto la Carnia, dove in verità piove molto. Ma vuoi mettere il brivido di una Montana dei Santi nell'agriturismo che offre cucina berbera con frico di pecorino? Agnello alla brace, brovada con gigot e chialcions all'uso di Marrakesh. E il pastore berbero, intervistato da Decanter sulle eccellenze del territorio sotto uno slavin che dura da giorni, proferirà l'unica frase in italiano che ha imparato: piove, governo ladro. Ci

non servono sempre i fiori per fare un bel giardino. Franca Merluzzi è andata nel Roseto di Artegna. Siamo ormai avanti con la stagione e le forti piogge hanno portato via quel profumo intenso delle grandi piante di osmanto dal fiore bianco e di una rara varietà rubra con fiori arancio. Ora sono maturi però i frutti della cidonia, i rosai hanno perso le foglie, scopriamo le ultime fioriture. Sono, spiega Leonora, rose noisette, tea, cinesi e moderne rifiorenti. Dalie, qualche iris americano, gladioli tardivi, tipicamente friulani, astri che fanno belle macchie di colore tra i cespugli. E poi tanti cinorroidi, ovvero bacche rosso vivo, rosso arancio, nere, verdi e di varie forme. A mela, a pera, a trottolo, a rapa, qui i lavori fervono, la vegetazione esuberante e Valentino sta provvedendo alla pulizia dal secco e alla sostituzione dei pali di sostegno. Ora che la bellezza delle rose si è fatta discreta, si nota maggiormente la presenza di alberi rari e pregiati, che ormai hanno più di 40 anni, come quel grande azzeruolo da cui i rami pendono i frutti arancione simili a piccole mele. Commestibili, sono assai gradite anche dagli uccelli. Protetta dalla casa, cresce una feijoa selloviana, pianta sempreverde di origine brasiliana. Il frutto è commestibile, croccante e succoso, ha un sapore tra l'ananas e la fragola. Non sono invece edibili i frutti dell'albero dei rosari o dei paternoster, così è detto, alto 25 metri. Eleonora racconta che ogni anno i ricci, prima di andare in letargo, vengono a gustare i frutti succosi che cadono a terra e scelgono quelli del melo da fiore Maluser Res Sentinel. Sono animali notturni e lei si accorge del loro arrivo nel buio quando dalla finestra sente scricchiolare le foglie cadute ormai secche. Fare grappa in Friuli Venezia Giulia è una tradizione, come visto, consolidata nel tempo, nonostante atteggiamenti quasi proibizionistici dell'autorità, come ci spiega Gabriele Cagliazza. Oggi il discorso parte con un omaggio alla Carnia e a una delle sue piccole grandi località. Sulla scia dei lunghi trascorsi nell'Ambicà, soprattutto utilizzando susine locali, base dello Slivovitz, Scabia fu a lungo un'incontrastata mini capitale della distillazione. Per esempio, nel 1901, su 16 distillatori attivi ufficialmente in Carnia, uno operava a Trepocarnico, uno a Villa Santina, due ad Arta e ben 12 nella frazioncina dove era vissuto nell'Ottocento quel Giovanni Gortani che, dopo l'affermazione del Regno d'Italia sabaudo, si era letteralmente sfibrato a combattere contro quello che considerava un accanimento persecutorio da parte della Guardia di Finanza nei confronti dei produttori di grappa, al punto da giungere alla ferale decisione di smantellare con le sue stesse mani il proprio alambicco pur di metter fine a quell'impari assurda lotta. Eppure, nonostante tutto, l'interesse per la distillazione nel complesso non venne meno, in Carnia né in alcun'altra parte della regione. Nel 1890 il Friuli piemontese poteva contare su quasi 220 fabbriche attive, ubicate per oltre due terzi nel mandamento cividalese. Anche se poi il mastro distillatore continuava non di rado a operare innanzitutto per mezzo del già ricordato alambicco mobile, che collocato su un carro adatto rendeva possibile effettuare il giro di coloro che disponevano della materia prima. La distillazione, insomma, era ancora e soprattutto una sorta di rituale pubblico. Di solito, infatti, aveva luogo proprio sulla piazza del paese, laddove l'esperto Sniapin, assistito da più di un aiutante, eseguiva un protocollo del tutto particolare per governare il fuoco e per esaminare, pur senza disporre della benché minima attrezzatura di controllo, la natura del liquido alcolico che stillava dalla serpentina durante il processo distillatorio. Tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento, in Friuli come altrove furono in attività anche diversi esercenti di alcolici, commercianti che talora erano anche produttori. Solo per fare qualche esempio, nel 1861 erano presenti, operativi a Udine, 8 negozianti all'ingrosso di spiriti ed aceto, altrettanti fabbricatori di birra ed aceto e ben 31 venditori di spiriti e birra. Parimenti, fra il 1895 e il 1930, nel non lontano comune di Pavia di Udine operarono due licoristi, tre pizzicagnoli licoristi e numerosi osti licoristi. E forse in quegli stessi decenni lavorò pure l'esercente di cui tuttora resiste l'affascinante quanto sobria insegna muraria «Vendita liquori al minuto», dipinta sulla parete prospiciente la piazza di Lovaria. Ma i liquori propriamente detti sono tutt'altra cosa rispetto ai prodotti della distillazione di sostanze alcoligene, nella grappa le vinacce. Chi forniva la materia prima ai venditori di alcolici, dunque, erano soprattutto le distillerie. Ed ora il microfono ad Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento ancora attivo lunedì scorso alle contrattazioni cerealicole a Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,60 e 16,80 euro al quintale IVA esclusa. Il frumento terreno buono mercantile tra 19,50 e 19,80, l'orzo tra 20,20 e 20,70 e la soia tra 32,30 e 32,80. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è aumentato di 20 centesimi, mentre la soia è diminuita di 5,10 euro il quintale. Scambi positivi con discreti affari al mercato trofrutticolo di Udine, dove l'insalata gentile, la lattuga Trocadero e la cicoria vengono pagate tra 1,20 euro al chilo IVA esclusa, le tegoline tra 1,50 e 1,80, la scalora riccia tra 2,30 e 2,40, le zucchine tra 2,20 euro, le melanzane tonde tra 1 e 1,50, i pomodori italiani in grappolo tra 1,70 e 1,80, i finocchi tra 1 e 1,20, il radicchio rosso tondo tra 1 e 1,30, i peperoni gialli e rossi italiani tra 1,40 e 1,80, i cavoli tra 1 e 1,20, l'uva tra 2 e 2,60, le mele golden tra 0,80 e 1,60, i kiwi italiani tra 1,80 e 2 euro, le clementine tra 1 e 1,90, le arance tra 1,10 e 1,50 e le castagne tra 3,50 e 4,50 euro al chilo. Lievi cenni di ripresa nel settore dei foraggi, il fieno mazzengo di pianura e l'erba medica vengono pagati in media tra 19,50 e 20,10 euro al quintale IVA esclusa, mentre la quotazione della paglia di cereale pressata oscilla tra 13 e 13,50. Infine, scambi attivi sui mercati avicolicoli, con i polli a terra pagati tra 1,14 e 1,16 euro al chilo IVA esclusa, tacchini maschi tra 1,41 e 1,43, le faraone tra 2,35 e 2,39, le anatre tra 2,30 e 2,34, le oche tra 4,60 e 4,80, i conigli oltre 2,5 kg quotati dal CUM di Verona tra 2,39 e 2,45, e le uova da 63 a 73 grammi a 12 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer, Sergio Nordio, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. In quest'ultima settimana abbiamo vissuto un episodio di maltempo che rimarrà nella storia, soprattutto per la zona montana, per gli effetti congiunti di piogge molto intense e vento di sirocco fortissimo. La pioggia caduta nell'ultima settimana su Alpi e Prealpi Carniche va da 400 a 800 mm, con punte anche oltre i 1000 metri sulla zona Cavallo, fra i comuni di Fone di Sopra, Fone di Sotto, Claut e Cimolais, e ci rimanda ai record dell'alluvione del 66, che fu però più estesa territorialmente su gran parte della regione. Per quanto riguarda il vento di sirocco fortissimo, sono state registrate raffiche intorno ai 200 km orari, più della conosciutissima Bora Triestina, ma per questo elemento, le misure, che sono state estreme, non ci sono in montagna dati prima del 1991, quindi è difficile trovare riferimenti storici. Certo che vedere in Carnia, nel Cadore, in Trentino, interi boschi secolari abbattuti, ci rende subito l'idea dell'eccezionalità dell'evento. A partire da domani e fino a mercoledì ritorneranno ad affluire sulla regione moderate correnti umide sudorientali, sospinte dalla depressione sul Mediterraneo occidentale. Avremo pertanto ancora piogge intermittenti, da moderate ad abbondanti, forse anche temporalesche, specie in pianure sulla zona montana più occidentale, meno pioggia invece sulle zone orientali. Giovedì è atteso un fronte atlantico che porterà ancora pioggia, anche abbondante, e neve intorno a 1800 metri circa. Le temperature rimarranno ancora miti fino a mercoledì, probabilmente caleranno un po' successivamente, ma non è ancora in vista l'arrivo del freddo. Da venerdì prossimo dovrebbe rimontare l'anticiclone e il tempo potrebbe essere più stabile nel fine settimana. Ma come sempre invitiamo a seguire costantemente gli aggiornamenti. Termina qui la puntata. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. Sorelli a San Martin al da un inviar chianin, ovvero se c'è il sole il giorno di San Martino l'11 novembre, in inverno avremo un freddo cane. Coordinamento tecnico di Daniel Apostu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it e potete trovarci sulla pagina Facebook Vita nei Campi e riascoltarci sulla pagina web www.rainews.it/tgr/fvg. Armando Mucchino, Sebastiano Franco e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei Campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.